快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，下面我们将要听到的是他所演唱的威尔第的15首歌剧咏叹调，风格多样，难度极大，具有抒情性和戏剧性。波切利的演唱把不同人物的内心情感刻画得栩栩如生。下面请欣赏他的演唱，由祖宾梅塔指挥以色列爱乐乐团伴奏。下面我们将要听到的是他所演唱的威尔第的15首歌剧咏叹调，风格多样，难度极大，具有抒情性和戏剧性。波切利的演唱把不同人物的内心情感刻画得栩栩如生。下面请欣赏他的演唱，由祖宾梅塔指挥以色列爱乐乐团伴奏。

fedele il flutto m'aspetta. Se molle di pianto la donna diletta, dicendomi addio, dicendomi addio, tradì l'amor mio, tradì l'amor mio. Con l'acere vele e l'alma in tempesta, di solchi soffranger nell'onda funesta, l'averno ed il cielo irati sfidar, l'averno ed il cielo irati sfidar. Sollecita esplora divina, gli eventi non possono i fulmin, la rabbia dei venti, la morte, l'amore, sviarmi dal mar. La morte, l'amore, sviarmi dal mar. La morte, l'amore, sviarmi dal mar. La morte, l'amore, sviarmi dal mar. Sull'agile prora che magita il greco, se scosso mi sveglio ai fischi del nembo, ripeto fra tuoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni del tetto natio, che i baci ricordan dell'ultimo addio, e tutte raccendon le forze del cuor, e tutte raccendon le forze del cuor. Su dunque risuoni la tua profezia di ciò che può sorgere dal fato qual sia, nell'anime nostre non entra terror. Non entra terror, nell'anime nostre non entra terror, e l'anime nostre non entra terror, e l'anime nostre non entra terror, e l'anime nostre non entra terror. Ma se me forza perderti per sempre, o luce mia, a te verrà il mio palpito sotto qual cielo. Come se fosse l'ultima. nostro amor. Se fosse l'ultima del nostro amor. Ne brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, schiusero l'uscio e la magion deserta. E dove ora sarà quell'angel caro, colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei sì pura il cui modesto sguardo quasi spinto a virtù allor mi credo. Ella mi fu rapita, e chi l'ardiva ma ne avrò vendetta. Lo chiede il pianto sente amor mi chiama volare io deggio a lei il certo mio darei per consolar quel cor il certo mio darei per consolar quel cor ma sappia al fin chi l'ama conosca al fin chi sono apprenda che anche in trono degli schiavi amor apprenda canto in trono canto in trono degli schiavi Possente amor mi chiama volare io deggio a lei il certo mio darei per consolar quel cor il certo mio darei per consolar quel cor ma sappia al fin chi l'ama conosca al fin chi sono apprenda anche in trono degli schiavi amor apprenda canto in trono canto in trono degli schiavi ma degli schiavi amor come canto d'un sogno si avverasse un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di Menfi tutta e a te mia dolce ai a tornar di l'auricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto celeste ai Ridarti le dolci brezze Amori e le pompose feste, o vagli omaggi a vezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascer mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scordo de gaudi suoi tutto il passato. Lenti spiriti, il giovanil ardore e la tempra col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Tal di che disse vivere, io voglio te fedele. Io vivo quasi in ciel, dall'i che disse vivere, io voglio a te fedel. Ah sì, te l'universo in me more, io vivo quasi in ciel, io vivo in ciel. Dell'universo in memore, io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo. Oh mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno frangere il vermi valerò. Per poco in seno acquetati, o grido, grido dell'onore, avrai sicuro vindice quest'on t'alloverò. O mio sor, o infamia, o se quest'on t'alloverò, si laverò. O mio rossor, o infamia, o se quest'on t'alloverò. Quest'ontalavero. O mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno frangere il vermi valerò. Per poco in seno acquetati, o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'on t'alloverò. O mio rossor, o infamia, o se quest'on t'alloverò, si laverò. O mio rossor, o infamia, o se quest'on t'assi quest'on t'alloverò, quest'on t'a, quest'on t'alloverò. Secco al cielo ed erger mi non va, non va, non va. Merce diletti amici, a tanto amor merce. Udite or tutti del mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre per nani fia perduto. Come rogiato al cespite passito fiore, aragonese vergine, scendea mi voce al cuore. Fu quello il primo palpito, il primo palpito d'amore, d'amore che mi bea. Il vecchio Silva stendere osa su lei la mano, domani trarre l'altalamo, confida l'inumana. Rapisca, si arrabbia, ma il seguirci sta la partita. E il giurò, quando se ti seguiremo, quando un dopo il cielo tocca, tu ne avrai compagno allora. Dagli esterni tu mi pare che ti ascolti ogni cura. E mentre mi la tua bella, e banditi via la stella, sarà degna tua valore, sarà degna tua valore. Time for ogni altro bene, il loco amor terrà. Purché sul tuo bel viso venga a brillare il riso, gli stenti suoi le pene Ernani scorderà. Oh, gli stenti suoi le pene Ernani scorderà. O tu che l'alma d'ora vien la mia vita infiora, per noi d'ogni altro bene il loco amor terrà. Purché sul tuo bel viso venga a brillare il riso, gli stenti suoi le pene Ernani scorderà. Oh, gli stenti suoi le pene Ernani scorderà. Suprema, un altro è de mio padre, un altro e questo è il re, lei che adoro m'ha rapita, la sposa a me promesa. Un altro è de mio padre, un altro e questo è il re, lei che adoro m'ha rapita, la sposa a me promessa. e speme, e sogni, e amore, mai rubato, speme, sogni, amore. Un'alma si nera si mendace, bella conobbe il padre, ma dunque i giuri, le speranze, la gioia, le lacrime, l'affanno, tutto è menzogna, tradimento, inganno. E questa mano a stringermi alla sua man sentia. Oh, mi tradia, mi tradia. Statico da labbri suoi pendea ed ella in suono angelico amo, amo te sol dicea tal che sembrò l'empire Allah l'alma mia in suono angelico amo te sol dicea mi tradia mi tradia mi tra- suono angelico amo dicea mi tradia mi tradia. Inferno all'infelice, invano morte desio. Si viglia sarò infelice eternamente, è scritto. Ella nata al suo terra, il padre volle spezzar l'estraneo giogo e coll'unirsi all'ultima degli incas la corona cingere confinò. Fu vana impresa, in un carcere nacqui, m'educava il deserto, sol vivo perché ignota mia regale stirpe, i miei parenti sognarono. Pietà di me. 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的意大利民歌。 Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande.Tu andarsene poi via Questa melodia Inno dellaLa canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. Limpido il mattino tra i canti un gran molino. Lì è nato il mio destino, amaro senza te. pensare al passato, quanta nebbia c'è là. Stringimi e parlami ancora e vedrai si rivivrà. Legami con i capelli il cuore, tu mia onda scendi dentro me. Stringimi che ormai io sono il mare, questo brivido ti scioglierà. Parlami, abbracciami, scivola azzurra. Then I know it's true. that I should love someone like you, someone who believes in me, makes my voice to sing with a heart so free, as sure as I can be. For me, if one dream can come true, then I will love someone like you. In your eyes I see a life that could mean so much more with you next to me. And if time is cruel, while I won't run and hide, I could walk through fire with you by my side. 'Cause after all, if we want forever, there's a hand to hold through the silent cold when nobody wants to know you. So never let it go, and you'll never be alone, knowing that I love you so. And if it's the only thing I ever do, then I know it's true that I should love someone like you. Someone who believes in me, makes my voice to sing with a heart so free, as sure as I can be. For me, if one dream can come true, then I will. Di qua. Scusi, ma la seguirei fino alla porta se poi mi dice la strada che fa o almeno se domani verrà. Come chi sta di là dal tempo mi parlò, le parlai e si fece sera, mi mostrò le sue idee circa la bellezza, l'ascoltai, mi ascoltò e si fece buio. Mi dica il nome suo, mi chiamo Chiara e lei è la primavera, ci giocava intorno. Scusa se mi innamorai in un istante di te, per l'aria serena che hai. Ma dimmi, passi spesso di qua? Stemmo là, mi parlò, le parlai. Scusa, ma ti seguirei fino alla porta se poi mi dici la strada che fa. Almeno se domani verrai, se domani verrai. Ma dimmi se domani verrai, se domani. Certe città, poca memoria, con il cielo riflesso sul mare ed il vento che spazza la storia, e tu dimenticato così come un uomo che fu, senza gloria e senza memoria, ma il tuo canto è ancora nell'aria. Le barche, le vele, le onde, le navi di questa città ora cantano tutte insieme le tue melodie nel mondo. È alta nel cielo la musica che ci hai dato tu e nessuno può più cancellare e mai più dimenticare. Adesso tu verso il mare sentirai cantare questa musica dolce che non morirà mai. Ancora la tua forza è il mare, libero senza segreto che tenevi con te, una donna, un amore. Quante lettere scritte per lei, per non morire. Una voce, due occhi grandi nascosti nel cuore, sotto un limpido cielo toscano, tanta voglia di sognare. Storie, passione, dolore, mascagni vive tra di noi. La luna sparisce dietro alle nubi, un uomo canta dalla blu. Negli occhi l'equatore, grande sogno dei marinai, e la scogliera già svanita, si alzano le vele della vita, e adesso corri verso il mare. Sentirai cantare questa musica dolce che non così come un attimo, mentre tutto va oltre i limiti della mia fantasia, tu che rimi, voli e brividi, grandi sogni forse realizzai, a che servono se tu non sei qui, qui con me, anche se ho sbagliato io. Resta qui con me, io sarò prenderti la mano e darti l'anima. Resta qui, resta qui, tu che sei mia, un attimo e noi valeremo là, come tutto il paradiso se noi saremo là. rallentare il tempo che non passerà. Resta qui, resta qui, tu che sei mia. Un attimo e noi voleremo là. Ogni giorno che noi saremo insieme. Questo è il mistero. la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se vuoi, e cerca di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi non ha. Basta poco a te, ma forse non lo sai che quello che tu dai è quello che tu avrai. Se la gente usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore. Cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di serenità. E non ti pentirai se adesso ti aprirai soffre accanto a te, forse non lo sai, ma basta poco a te per somigliare a un re. Del mattino si spingeva nelle case, io seguivo il suo ricordo con la punta delle mani, il profumo delle rose dura solo una stagione, poi si perde tra le cose ed è così che persi lei. Si voltò, mi voltai. Non seppe mai che morivo di lei, che avrei voluto fermarla, ma poi seppi capire che il gioco degli anni ci rese distanti, che il suo destino non era qua. Mentre il sole delle due stava alto su Firenze, sedevamo a un ristorante verso il punto del caffè. L'orologio disse andiamo, l'aiutai con le valigie. Lei che disse ci scriviamo, io sorrisi e dissi ciao. Seppe mai che morivo di lei, che avrei voluto fermarla, ma poi seppi capire che il gioco degli anni ci rese distanti, che il suo destino non era. Fermarla non puoi, lei vive un tempo che leggi non ha, vola seguendo una linea che sembra dettata dal vento, tu puoi seguirla soltanto. Mentre il sole della sera si prendeva i suoi colori, io pensavo è stato giusto e pensando mi stancai. Il profumo delle rose dura solo una stagione, poi si perde fra le cose ed è così che persi lei. Si voltò, mi voltai. Si voltò ed anch'io. Mi quello che mi dai, quell'emozione in più ad ogni tua parola. Tu, probabilmente tu, sei stata fino a qui per troppo tempo sola, fino a convincerti si può stare da soli, perché la solitudine che non sorride mai diventa l'abitudine e non la scelta che tu fai. Ma ora che son qui il vento cambierà, sembrerà più facile. Il tempo che verrà. La vita può sorprenderti in tutto quel che fa e dove non lo immagini incontri la felicità. E sono qui con te e non ti lascerò. Ti chiedo di fermarti qui e stare insieme a te. E stare insieme a te. Sì, adesso ci sei tu nei sogni e nelle immaginazione. Tu che sei vicino a me, così vicino a te, che sei parte di me, così dentro di te, come una sensazione. Sei le parole, la musica per una nuova canzone. Di sorridere no, e la felicità. Se ci sei per quello che tu sei, e lo sai, per quello che mi dai, anche tu, per un amore semplice ma grande più che mai. E non è un'abitudine il bene che mi fai, anche tu, e l'allegria di viverti più che mai. E adesso siamo noi, ci siamo solo noi, sicuri di non perderci, di non lasciarci mai. Un'altra solitudine non ci riprenderà e tu non te ne andrai. While, like a giant, proud and happy, I take my baby in my arms, fragile, innocent, and alive, like a little bird pushing against my chest, abandoned, quiet, and safe. For an instant, almost sweetly, destiny appears to me like a dream. I see myself old and surrendered, seated there near the coal fire,waiting for the evening with the anxiety of a child, just to see him coming back home with a gift of his smile, of his words. Sweetly, destiny appears to me like a dream. I see myself old and surrendered, seated there near the coal fire, waiting for the evening with the anxiety of a child, just to see him coming back home with a gift of his smile.Of his words and kindness. It's like a promise that can solve the enormous joy of one of his caresses. Then I wake up and I've already forgotten, but inside of me, the kid's trapped soul advises me that this newborn child is already more important to me than that of my own life. Davanti a lui per un po' mi ascoltai nell'aria, poi l'afferrai. Lui aprì la mano e poi mi toccò sfiorò la bocca. Io l'abbracciai ed il mondo girò di più. Intorno a noi ogni cosa poi fiorì. E restai davanti a lui per un po' e fu lì che il tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso ed io sorrisi. Yeah. come ho potuto perderti e mi manchi tu. Una malinconia dolcissima, il tuo sorriso nell'andarti. Aspetterò anche un ritorno impossibile, sembra possibile per me. Ti aspetterò. Dimmelo, c'è posto anche per me.